Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quinto giorno, Compieta, dove si ascolta un sermone sulla venuta dell'Anticristo e Azzo scopre il potere dei nomi propri. Vespro aveva avuto luogo in modo confuso ancora durante l'interrogatorio del cellario, coi novizi curiosi che erano sfuggiti di mano al loro maestro per seguire da finestre e fessure quanto accadeva nella sala capitolare. Occorreva ora che tutta la comunità pregasse per l'anima buona di Severino. Si pensava che l'abate avrebbe parlato a tutti e ci si domandava cosa avrebbe detto. Invece, dopo la rituale omelia di San Gregorio, il responsorio e i tre salmi prescritti, l'abate si affacciò al pulpito, ma solo per dire che quella sera lui avrebbe taciuto. Troppe sventure avevano funestato l'abbazia, disse, perché lo stesso padre comune avesse potuto parlare con l'accento di chi rimprovera e ammonisce. Occorreva che tutti, nessuno escluso, facessero un severo esame di coscienza. Ma poiché bisognava che qualcuno parlasse, proponeva che il monito venisse da chi, più anziano di tutti e ormai vicino alla morte, fosse di tutti meno coinvolto nelle passioni terrestri che avevano cagionato tanti mali. Per diritto di età la parola sarebbe spettata da Linardo da Grottaferrata, ma tutti sapevano quanto la salute del venerabile confratello fosse fragile. Subito dopo Alinaro, nell'ordine stabilito dal volgere inesorabile dei tempi, veniva Jorge. A lui, l'abate, dava ora la parola. Udimmo un mormorio da quella parte degli stalli, dove sedevano di solito Aimaro e gli altri italiani. Immaginai che l'abate avesse affidato il sermone a Jorge senza interpellare Alinardo. Il mio maestro mi fece notare sottovoce che quella di non parlare era stata per l'abate una prudente decisione, perché qualsiasi cosa avesse detto sarebbe stata soppesata da Bernardo e dagli altri avignonesi presenti. Il vecchio Jorge si sarebbe invece limitato a qualcuno dei suoi vaticini mistici e gli avignonesi non vi avrebbero dato gran peso. «Non io, però», aggiunse Guglielmo, «perché non credo che Jorge abbia accettato e forse richiesto di parlare senza uno scopo ben preciso». Jorge salì sul pulpito sorretto da qualcuno. Il suo volto era illuminato dal tripode che solo rischiarava la navata. La luce della fiamma metteva in evidenza la tenebra che gravava sui suoi occhi, che parevano due buchi neri. «Fratelli dilettissimi», egli iniziò, «e voi tutti ospiti nostri molto cari, se vorrete ascoltare questo povero vecchio, le quattro morti che hanno funestato la nostra abbazia, per non dire dei peccati remoti e recenti, dei più sciagurati tra i vivi, non sono, voi lo sapete, da attribuire ai rigori della natura che, implacabile nei suoi ritmi, amministra la nostra giornata terrena dalla culla alla tomba. Voi tutti penserete forse che, per quanto vi abbia sconvolti di dolore, questa triste vicenda non coinvolga la vostra anima, perché tutti, salvo uno, siete innocenti, e quando quest'uno sia stato punito, vi rimarrà certo da piangere l'assenza degli scomparsi. Ma non dovrete scagionare voi stessi d'alcuna imputazione davanti al tribunale di Dio. Voi così pensate? Pazzi! Pazzi e temerari che siete! Chi ha ucciso porterà davanti a Dio il fardello delle sue colpe, ma solo perché ha accettato di farsi tramite dei decreti di Dio, così come occorreva che qualcuno tradisse Gesù perché il mistero della redenzione fosse compiuto. Tuttavia, il Signore ha sancito dannazione e vituperio per chi lo ha tradito. Così qualcuno in questi giorni ha peccato, portando morte e rovina, ma io vi dico che questa rovina è stata, se non voluta, almeno permessa da Dio, a umiliazione della nostra superbia. Tacque e volse lo sguardo vuoto sulla cupa assemblea, come se con gli occhi potesse coglierne le emozioni, mentre di fatto con l'orecchio ne assaporava il costernato silenzio. In questa comunità serpeggia da gran tempo l'aspide dell'orgoglio. Ma quale orgoglio? L'orgoglio del potere in un monastero isolato dal mondo? No, certo. L'orgoglio della ricchezza. Fratelli miei, prima che il mondo conosciuto e che giasse di lunghe querele sulla povertà e sul possesso, sin dai tempi del nostro fondatore, noi, anche quando abbiamo avuto tutto, non abbiamo avuto nulla. La nostra unica vera ricchezza, essendo l'osservanza della regola, la preghiera e il lavoro. Ma del nostro lavoro, del lavoro del nostro ordine e in particolare del lavoro di questo monastero, fa parte, anzi è sostanza, lo studio e la custodia del sapere. La custodia, dico, non la ricerca, perché è proprio del sapere, cosa divina, essere completo e definito sin dall'inizio della perfezione del verbo che si esprime a se stesso. Vi è da rimeditare, chiosare, conservare. Questo era e dovrebbe essere l'ufficio di questa nostra abbazia con la sua splendida biblioteca, non altro! Da qui la responsabilità del nostro ordine nei secoli e il fardello della nostra abbazia oggi. Orgogliosi della verità che proclamiamo, umili e prudenti nel custodire le parole nemiche della verità, senza farcene insozzare. Ora, fratelli miei, qual è il peccato di orgoglio che può tentare un monaco studioso? Quello di intendere il proprio lavoro non come custodia, ma come ricerca di qualche notizia che non sia stata ancora data agli umani. Questo è l'orgoglio che ha serpeggiato e ancora serpeggia per queste mura. E io dico a chi si è affannato e si affanna a rompere i sigilli dei libri che non gli sono dovuti, che è questo l'orgoglio che il Signore ha voluto punire e che continuerà a punire se esso non scemerà e non si umilierà, perché al Signore non è difficile trovare, sempre ancora a causa della nostra fragilità, gli strumenti della sua vendetta. «Hai sentito, Azzo?» mi mormorò Guglielmo. «Il vecchio sa più di quel che dice. Che abbia o no le mani in questa storia, egli sa e avverte che se i monaci curiosi continueranno a violare la biblioteca, l'abbazia non riavrà la sua pace.» Jorge ora, dopo una lunga pausa, riprendeva a parlare. «Ma chi è, infine, il simbolo stesso di questo orgoglio? Di chi gli orgogliosi sono figure, messaggeri, complici e vessilliferi? Chi in verità ha agito e forse agisce anche tra queste mura, così da avvertirci che i tempi sono vicini e da consolarci? Perché se i tempi sono prossimi, le sofferenze saranno certo insostenibili, ma non infinite nel tempo. Dato che il grande ciclo di questo universo sta per compiersi! Ma non sono così ingenuo da indicarvi un uomo. L'anticristo, quando viene, viene in tutti e per tutti e ciascuno ne è parte. Verranno meno l'afflizione, l'umiltà, l'amore della pace, la povertà, la compassione, il dono del pianto. Sofia! Non vi riconoscete tutti qui presenti, monaci dell'abbazia e potenti venuti da fuori? Nella pausa che seguì si udì un fruscio. Era il cardinal Bertrando che si agitava sul suo scranno. In fondo pensai Jorge stava procedendo da gran predicatore e mentre fustigava i suoi confratelli non risparmiava neppure i visitatori. Avrei dato non so cosa per sapere cosa passasse in quel momento per il capo di Bernardo o ai grassi avvignonesi. E sarà a questo punto, che è appunto questo, tuonò Jorge, che l'anticristo avrà la sua blasfema parusia. Scimmia qual vuole essere di nostro signore. È il momento, diceva ora Jorge, che tutto cadrà nell'arbitrio. I figli solleveranno le mani contro i genitori, la moglie tramerà contro il marito chiamerà in giudizio la moglie, i padroni saranno disumani coi servi e i servi disubbidiranno ai padroni. Non vi sarà più reverenza per gli anziani, gli adolescenti chiederanno il comando, il lavoro parrà a tutti una inutile fatica, dovunque si alzeranno cantici di gloria alla licenza, al vizio, alla dissoluta libertà dei costumi, e dopo di ciò stupri, adulteri, spergiuri, peccati contro natura seguiranno a grande ondata, e mali e divinazioni e incantesimi, e appariranno nel cielo corpi volanti, sorgeranno in mezzo ai buoni cristiani falsi profeti, falsi apostoli, corruttori, impostori, stregoni, stupratori, avari, spergiuri e falsificatori. I pastori si trasformeranno in lupi, i sacerdoti mentiranno, i monaci desidereranno le cose del mondo, i poveri non accorreranno in aiuto dei capi, i potenti saranno senza misericordia, i giusti si faranno testimoni di ingiustizia, tutte le città saranno scosse da terremoti, vi saranno pestilenze in tutte le regioni, tempeste di vento solleveranno la terra, i campi saranno contaminati, il mare secernerà umori nerastri, nuovi sconosciuti prodigi avranno luogo nella luna, le stelle abbandoneranno il loro corso normale, altre ignote solcheranno il cielo, nevicherà d'estate e farà caldo torrido d'inverno, e saranno venuti i tempi della fine, la fine dei tempi. Non di questo dobbiamo noi orgogliosamente compiacerci questa sera. Meditiamo invece sulle parole che il Signore pronuncerà per cacciare da sé chi non ha meritato salvezza. Io vi ho dato forma e voi vi faceste seguaci di un altro. Vi siete fatti servi di un altro Signore. Andate a dimorare con Lui nel buio, con Lui, il serpente che non riposa, nel mezzo dello stridore dei denti. Vi diedi orecchio per prestare ascolto alle scritture, e voi ascoltaste le parole dei pagani. Vi composi una bocca per glorificare Dio, e voi la usaste per le falsità dei poeti e per gli enigmi dei giullari. Vi diedi gli occhi perché vedeste la luce dei miei precetti, e voi li usaste per scrutare nella tenebra. Io sono un giudice umano, ma giusto. A ciascuno darò ciò che merita. Vorrei avere misericordia per voi, ma non trovo olio nei vostri vasi. Sarei spinto a impietosirmi, ma le vostre lampade sono affumicate. Allontanatevi da me! Così parlerà il Signore, e quelli e noi forse scenderemo nell'eterno supplizio. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, risposero tutti a una voce. Tutti in fila, senza un sussurro, andarono i monaci ai loro giacigli. Senza desiderio di parlarsi, scomparvero i minoriti e gli uomini del Papa, anelando all'isolamento e al riposo. Il mio cuore era greve. A letto, Azzo, mi disse Guglielmo salendo le scale dell'albergo dei pellegrini. Non è una sera da restare in giro. A Bernardo Gui potrebbe venire in mente di anticipare la fine del mondo incominciando dalle nostre carcasse. Domani cercheremo di essere presenti a mattutino, perché subito dopo partiranno Michele e gli altri minoriti. Partirà anche Bernardo coi suoi prigionieri? Domandai con un filo di voce. Sicuramente non ha più nulla da fare qui. Vorrà precedere Michele ad Avignone, ma in modo che il suo arrivo coincida col processo al Cellario, minorita, eretico e assassino. Il rogo del Cellario illuminerà come fiaccola propiziatoria il primo incontro di Michele col Papa. E cosa accadrà a Salvatore? E alla ragazza? Salvatore accompagnerà il Cellario perché dovrà testimoniare al suo processo. Può darsi che in cambio di questo servizio Bernardo gli conceda la vita. Magari lo lascerà scappare e poi lo farà uccidere. O forse lo lascerà andare davvero, perché uno come Salvatore non interessa a uno come Bernardo. Chissà, forse finirà a tagliagole in qualche foresta della lingua d'oca. E la ragazza? Te l'ho detto, è carne bruciata. Ma arderà prima, lungo il cammino, a edificazione di qualche paesello cataro lungo la costa. Ho sentito dire che Bernardo dovrà incontrarsi con il suo collega Jacques Fournier. Ricordati questo nome, per ora brucia Albigesi, ma mira più in alto. È una bella strega da mettere sulla catasta, aumenterà il prestigio e la fama di entrambi. Ma non si può fare qualcosa per salvarli? Gridai. Non può intervenire l'abate! Per chi? Per il Cellario reo confesso? Per un miserabile come Salvatore? O tu, pensi alla ragazza? E se fosse, ardì, in fondo dei tre è l'unica veramente innocente. Voi sapete che non è una strega. E credi che l'abate, dopo quello che è successo, voglia mettere a repentaglio quel poco di prestigio che gli è rimasto per una strega? Ma si è assunto la responsabilità di fare fuggire Ubertino. Ubertino era un suo monaco e non era accusato di nulla. E poi che sciocchezze mi dici? Ubertino era una persona importante. Bernardo avrebbe potuto colpirlo solo alle spalle. Così il Cellario aveva ragione. I semplici pagano sempre per tutti, anche per coloro che parlano in loro favore, anche per coloro come Ubertino e Michele che con le loro parole di penitenza li hanno spinti alla rivolta. Ero disperato e non consideravo neppure che la ragazza non era un fraticello sedotto dalla mistica di Ubertino, però era una contadina e pagava per una storia che non la riguardava. Così è, mi rispose tristemente Guglielmo. E se proprio cerchi uno spiraglio di giustizia, ti dirò che un giorno i grossi cani, il Papa e l'Imperatore, per fare pace passeranno sopra il corpo dei cani più piccoli che si sono azzuffati al loro servizio. E Michele e Ubertino saranno trattati come oggi viene trattata la tua ragazza. Ora so che Guglielmo profetava, ovvero sillogizzava, in base a principi di filosofia naturale. Ma in quel momento le sue profezie e i suoi sillogismi non mi consolarono per nulla. L'unica cosa certa era che la fanciulla sarebbe stata bruciata e mi sentivo corresponsabile perché era come se sul rogo ella espiasse anche per il peccato che io avevo commesso con lei. Scoppiai inverecondamente in singhiozzi e fuggii nella mia cella dove per tutta la notte morsi il pagliericcio e mugolai impotente perché non mi era neppure concesso, come avevo letto nei romanzi cavallereschi coi miei compagni a Melk, di lamentarmi invocando il nome dell'amata, dell'unico amore terreno della mia vita. Non sapevo e non seppi mai il nome.